I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Alessandro Plateroti. Anche l'Italia avrà un giorno la sua automobile che si guida da sola? È la domanda che si fanno tutti dopo l'alleanza siglata tra la Fiat, ovvero FCA, e Google, un'alleanza che prevede lo sviluppo di un'automobile, uno sviluppo congiunto di un'automobile senza guidatore. Ormai tutte le case si stanno lanciando nell'automazione dei veicoli, tecnologie, telecomunicazioni e automatismi sembrano ormai il futuro di chi va in macchina. Ma quanto ci vorrà? Tanti anni, dicono gli analisti, soprattutto alla luce di un fatto: le tecnologie ci sono, ma il mercato è tutto da sviluppare e soprattutto ci sono ancora degli aspetti che pochi sanno, ad esempio come assicurare un'automobile che si guida da sola, di chi è la responsabilità se nel caso di un incidente. Ecco, sono tutte domande che sicuramente pongono un grosso punto interrogativo sui tempi che dovremo attendere prima di avere l'automobile che si guida da sé. Ma non è soltanto questo, per la Fiat è un passo importante perché il ritardo sullo sviluppo di un'auto elettrica aveva posto la casa sotto le lenti degli analisti e della borsa, che si chiedevano appunto quale futuro può avere una casa se non ha sviluppato dei motori ad energie alternative. Beh, questo arriverà più in là, ma prima dovrebbe esserci che cosa? Soprattutto la famosa alleanza per la Fiat, cioè il partner internazionale che dovrebbe proiettare la casa del lingotto su tutti i mercati globali dei prossimi 20 anni. Marchionne ha detto che non ci sono ancora negoziati concreti, che forse non sarà nemmeno presente lui come amministratore delegato quando sarà firmato questo accordo e probabilmente non ci sarà nemmeno quando arriverà l'auto che si guida da sé, ma è un fatto che un passo avanti è stato fatto. Dovrà essere seguito da che cosa? Sicuramente da tanta ricerca anche per il lingotto, perché non basta creare posti di lavoro in fabbrica, bisogna anche garantire un futuro a tutti quegli ingegneri che troppo spesso se ne vanno all'estero a cercare lavoro. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.